Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi importanti novità per la nostra trasmissione. Parte infatti Matching, la nuova iniziativa online che punta a mettere in contatto i giovani professionisti italiani all'estero con i loro colleghi rimasti in Italia. Tutti i dettagli tra poco. E parte anche la nostra inchiesta regionale. Lo sapete che numerose regioni italiane finanziano il rientro degli espatriati o la loro formazione all'estero? Ogni primo sabato del mese indagheremo una regione diversa. Ma veniamo alla storia di oggi, che ci riporta in Spagna, un paese dove essere avvocati giovani dall'apertura internazionale non equivale ad essere sfruttati, sottopagati e o piegati a logiche familistiche o di cooptazione. Qui non ho mai avuto il benché minimo problema per essere straniero. Certo, c'erano problemi pratici, concreti, ma al di là di quello devo dire che il paese, inteso anche come insieme di persone, mi ha accolto meravigliosamente. Marco Bolognini, 35 anni, avvocato a Madrid. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Importanti novità per il DDL contro esodo, che introduce incentivi fiscali da destinare al rientro in Italia dei giovani under 40 espatriati. Dopo l'approvazione alla Camera, il DDL si trova alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il suo presidente Mario Baldassarri. Abbiamo incardinato il provvedimento, aperto la discussione generale, avuto le repliche del relatore del governo proprio mercoledì scorso. Abbiamo determinato anche i termini per la presentazione di eventuali emendamenti che scadono mercoledì prossimo entro le ore 12. E poi procederemo con l'iter normale del disegno di legge. Avete già un'idea di quando potrebbe approdare in aula per l'approvazione definitiva? Il calendario dell'aula non lo fissa le commissioni, quindi poi sarà la capigruppo d'aula a stabilire il calendario dell'aula. Baldassarri ha poi precisato di ritenere questo DDL ipocrita. Prima occorre creare le giuste condizioni di lavoro per chi rientra in Italia, aggredendo le cause strutturali che fanno scappare i cervelli, ci ha detto. Per questo probabilmente si asterrà. E ora la quinta puntata dell'inchiesta di Giovani Talenti sui numeri della nuova emigrazione professionale. Ai nostri microfoni Sveva Avveduto, direttrice dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR. È un fenomeno sicuramente in crescita, è un fenomeno di difficile perimetrazione. Noi possiamo avere questi dati cercandoli nei paesi in cui le persone vanno. E il paese principale in cui gli italiani si recano per lavoro sono gli Stati Uniti, ed è anche un paese che raccoglie questo tipo di dati in maniera sistematica. Gli ultimi dati della National Science Foundation a questo proposito vedono circa 25.000 professionisti italiani che si trovano negli Stati Uniti per lavoro, e quindi uno stock veramente consistente di persone che sono occupate in professioni di alto livello, che hanno qualifiche elevate, minimo la laurea. A questo dato si può aggiungere un altro dato, che è quello relativo per esempio alle persone che svolgono attività nelle università. Abbiamo un complesso di poco più di 100.000 stranieri che appunto occupavano posizioni di docenza e di ricerca nelle università statunitensi. Di queste persone gli italiani erano il 4%, quindi una fetta molto consistente di persone, circa 3.500. In Europa i paesi di maggiore attrattiva per gli italiani ad alta professionalità sono il Regno Unito, la Francia e la Germania. Possiamo parlare di un'elite generazionale che emigra? Direi di sì. La Farnesina rinnova l'invito per una rete della presenza italiana all'estero, non più costituita dai migranti poveri, ma vera eccellenza internazionale. Se ne è parlato la scorsa settimana alla conferenza dei protagonisti italiani nel mondo, un convegno aperto a 80 connazionali al lavoro in 28 paesi. È il segno di un'Italia vincente per la quale dobbiamo fare di più, così il ministro degli esteri Franco Frattini. Il 22% dei giovani ha un contratto in scadenza, il 19% lavora a progetto e il 22% in nero, lo denuncia un'inchiesta di studenti.it. Intanto, secondo l'Istat, la disoccupazione giovanile è risalita al 26,4% e per Eurostat ben 4 nostre regioni, Sardegna, Sicilia, Basilicata e Campania, figurano nelle prime 20 in Europa per numero di giovani senza lavoro. Circa 150 scienziati e ricercatori italiani all'estero si riuniscono l'8 e 9 novembre a Cernobbio per la prima conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria. Il Ministero della Salute intende sviluppare un piano per la mobilità dei cervelli, favorendo la cooperazione tra chi emigra e chi resta. A Giovani Talenti uno dei partecipanti, Marco Marcelli, professore di medicina al Baylor College di Houston negli Stati Uniti. scopo è quello di mettersi tutti insieme sotto lo stesso tetto e di conoscersi, di scambiarsi idee. Da quanto capisco, il Ministero della Salute ha quote di bando di 10 milioni per favorire collaborazioni fra questi ricercatori italiani che si trovano all'estero e i ricercatori italiani. Questo per appunto favorire lo scambio di informazioni e la creazione di nuovi progetti. Quindi questo vuol dire una situazione, come si dice in inglese, win-win, vincono tutti quanti. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista per Moody's Analytics a Londra ha richiesto la laurea in economia, la posizione è già disponibile, info su moodys.jobs. Un avvocato specializzato nel settore del project finance lo cerca la European Investment Bank in Lussemburgo, scadenza per i CV domani, info su abe.org/jobs. E infine un group leader per la ricerca in neurooncologia pediatrica all'ospedale dei bambini di Zurigo, scadenza per i CV 15 novembre, info su kispi.uzh.ch. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Madrid, capitale della Spagna e cuore pulsante degli affari iberici. Nome: Marco. Cognome: Bolognini. Età: 35 anni. Città di origine: nato a Venezia, cresciuto a Bologna. Studi: liceo classico a Bologna, giurisprudenza a Bologna, con validazione del titolo in Spagna, a Valladolid. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2000. Per andare dove? Madrid. Perché? Per amore e per lavoro, coincidevano le due cose. Quale lavoro svolgi attualmente? Avvocato. Dove? A Madrid, Spagna. Tornerai? Non credo, francamente. Corren, fuerte viento de tormenta. Como no vivo del aire, me estoy dando rienda suelta. No se lo cuentes a nadie. Formas que invento, nadie se cree mis cuentos. Y no me cuadran las cuentas. Me buscas y no te encuentro. Y si no te busco, me encuentras. E stoppa, vientos de tormenta, quelli che noi preferiamo chiamare venti di cambiamento, che cominciano a soffiare anche qui, in questa penisola. In Spagna la classe dirigente è under 50, con molti trentenni in posti chiave. In Italia non solo la classe dirigente, anche nell'avvocatura è ultra cinquantenne, ma in generale il ricambio generazionale avviene su logiche squisitamente familiari, per cui l'erede dello studio è sempre un familiare del fondatore o socio di maggioranza. Così Marco scrivi a giovanitalenti@radio24.it. In Spagna il ricambio generazionale al netto della crisi economica è avvenuto e in Italia li intravedi questi venti di cambiamento? Per la verità non li vedo e non li intravedo. Il problema, più che nei grandi studi, spesso coinvolge gli studi di provincia, che non hanno la benché minima idea di ciò che sia la meritocrazia. Fin da bambino giocavo con i miei cugini a fare l'avvocato, inscenando degli pseudo processi. Una passione che viene da lontano, la tua allora? Da bambino sognavo di fare l'avvocato, di poter parlare, di poter scrivere. Sognavo di lottare per avere ragione e alla fine l'ho fatto in una lingua che non è la mia. Ti iscrivi all'Università di Bologna a giurisprudenza e a differenza di altri protagonisti delle nostre puntate, la tua esperienza universitaria in Italia non è stata positiva. Perché? L'Università di Bologna era, e presumo sia ancora, una realtà in mano ai baronati e ai professori col doppio lavoro. Docenza poca, libera professione molta, perlomeno a giurisprudenza. Quindi la gestione delle ore di insegnamento e degli esami era, a mio personale modo di vedere, completamente fallimentare. Nel 1996 però arriva il tuo primo contatto con un ateneo spagnolo a Valladolid, in Erasmus, dunque nel cuore della Castiglia. E cosa scopri? Un mondo fatto per lo studente, tu dici, anziché per i professori, vero? Sì, assolutamente. Un mondo nuovo ed assolutamente inatteso. Il rapporto studenti-professori era basato sulla vicinanza e la raggiungibilità del docente. Le lezioni venivano impartite dai docenti titolari di cattedra e non dagli assistenti. Alla fine del percorso di studi sbarchi praticamente subito, diciamolo, in Spagna. Però è molto interessante, a mio avviso, sottolineare il ragionamento che ti porta al di là dei Pirenei. Nel 2000, insieme alla tua fidanzata spagnola, poi tua futura moglie, valutate quale paese potrà offrire maggiori opportunità e optate per la Spagna. Perché? E chi interviene a consigliarvi? Siamo stati in una specifica occasione, un fine settimana, a guardarci in faccia per 3 giorni, quella che sarebbe diventata mia moglie ed io, per decidere su dove andare a vivere. Cominciamo ad esplorare le opportunità rispettive di lavoro a Madrid e Milano, sostanzialmente. Per poter decidere con un minimo di criterio, chiesi un parere ad un alto dirigente bancario, che era anche un buon amico di famiglia, che era stato in Spagna per diversi anni. Mi disse: non ci pensar nemmeno, non dubitare, vai in Spagna. In Spagna tu arrivi grazie a una borsa europea a Leonardo per uno stage. Spiegaci concretamente e praticamente com'è stato, nel tuo caso un reimpatto, c'eri già stato, sì. Però insomma cosa succede quando si espatria? Devo dire che la Spagna cerca di facilitare le cose. Il discorso alloggio è stato piuttosto semplice perché avevo buoni amici, ma comunque le strutture universitarie e post-universitarie che davano la borsa a Leonardo in Spagna funzionano piuttosto bene. Per quanto concerne poi l'espletamento di pratiche burocratiche, basti pensare al numero unico che si chiama NIE, che viene assegnato ad ogni persona e che si utilizza per passaporti, codici fiscali, carte d'identità, fini previdenziali e che non cambia mai per tutto il corso di una vita. Ad oggi io credo che la Spagna sia un paese burocratizzato ma molto molto meno rispetto all'Italia. Dallo stage in uno studio legale poi passi a ramo spagnolo della banca commerciale per un altro stage e a quel punto lo studio legale di questa banca ti offre un posto da avvocato junior sulla base, se non vado errato, della mera stima professionale. Mica eri raccomandato, no? No, assolutamente. Io arrivai in banca commerciale rompendo le scatole per mesi a diverse imprese italiane presenti in terra iberica e dopo alcuni mesi di lavoro in banca commerciale lo studio esterno della banca mi offrì di entrare in organico, ma fu proprio per buoni rapporti professionali. La cosa che mi ha colpito di più leggendo la tua storia è che il tuo essere straniero non costituiva assolutamente un problema. No, assolutamente. Assolutamente. In Italia questo secondo me non avverrebbe. Ma certamente non avverrebbe. Ci sono già seri problemi per gli italiani, per i giovani italiani, per trovare una collocazione degna di questo nome, quindi figuriamoci. No, qui non ho mai avuto il benché minimo problema per essere straniero. Tu scrivi a giovanitalenti@radio24.it che dopo pochi mesi ti rendi conto che la Spagna è un paese per giovani. Allora, la prima cosa è tuttora un paese per giovani e poi spiegaci concretamente cos'è un paese per giovani, anche con esempi semplici. Credo che la Spagna sia ancora un paese per i giovani. Speriamo solo che non scivoli su esempi importanti che partono dalla politica. Però direi che sia ancora un paese per i giovani. E cosa vuol dire essere un paese per i giovani? Quando entrai nella branch della banca commerciale, che era molto spagnolizzata, l'età media era sui 28-30 anni. Parlo anche dei dirigenti. I gruppi di amici si allargano e si allargavano senza problemi per accogliere i nuovi arrivati. La sensazione complessiva in generale, che è difficile poi da descrivere a parole, era quella di un paese ed è quella di un paese prossimo ai giovani e felice, come dire, di poter contare sulla presenza massiccia di nuove leve. Interessante, prendo la palla al balzo, anche perché lo studio dove vai a lavorare è giovane, ti vengono affidate responsabilità importanti a prezzo di un duro lavoro, diciamolo, questo è importante sottolinearlo, ma la mia domanda è: questo rapporto di fiducia verso un trentenne in Italia sarebbe stato mai immaginabile? No. C'è poco da ricamare su questa domanda, Sergio. No, per le mie esperienze, per quello che io conosco del mondo professionale italiano e non solo nel mio settore, vogliamo pensare ai medici, vogliamo pensare a tutte le storie che ho di amici che ostinatamente sono rimasti in Italia, però a 30 anni non hanno mai avuto un'importante responsabilità, solo quando sono entrati in strutture che avevano un taglio veramente più internazionale. Ma se andiamo nella provincia, dove credo esista il grande problema italiano, è impossibile pensare ad un trentenne con responsabilità e in più straniero. Tra l'altro tu un anno fa fai anche un grande salto perché diventi socio di questo studio, sei l'unico straniero socio. Aggiungiamo un aneddoto: tu non sei solo avvocato, sei anche editorialista di Expansión, un importante quotidiano economico spagnolo, il più importante. In un flash, come ci sei arrivato? Da una gaffe. Proprio per farti capire quello che dicevo prima, che è un paese per i giovani, non ci sono barriere generazionali, un giorno venni invitato insieme a mia moglie ad una cena con gente piuttosto importante a casa di un diplomatico, e tutti conoscevano tutti tranne me. Iniziai a parlare con una persona piuttosto cortese, chiedendogli di cosa si occupava, lui iniziò a dirmi che era giornalista, gli chiesi presso che testata, e lui mi disse presso Expansión. Alla fine insomma mi ha detto: guarda Marco, io sono il direttore di Expansión. E allora io gli risposi: ho fatto la tipica domanda che non avrei dovuto fare in una situazione, in un consesso di questo tipo. Di lì in poi lui mi chiese di scrivere per il giornale. E questo la dice tutta. Marco, brevemente però, qual è un po' la tua impressione sulla situazione dei giovani avvocati in Italia? Si sta parlando anche di una legge, del riordino della professione forense con l'abolizione delle tariffe minime, con anche qualche diritto in più per i praticanti legali. Però, anche alla luce di quello che sta avvenendo, l'Italia è un paese per giovani avvocati? È un paese che anche con la riforma sta facendo troppi passi che secondo me non sono adeguati. Basti pensare che qui in Spagna gli avvocati che lavorano presso uno studio legale, praticanti o non praticanti è lo stesso, vengono inquadrati nella previdenza sociale come lavoratori subordinati, punto. Poi potranno essere pagati col minimo salariale o di più, però cominciano a maturare diritti pensionistici e quant'altro. Questo sarebbe il grande cambiamento che porterebbe, secondo me, l'Italia nel settore dell'avvocatura ad avere un miglior livello di passione per la professione nei giovani. E poi, in realtà, da quello che so, si sta tornando a logiche che mi sembrano un po' da corralito, come direbbero in Argentina. Cioè, non è, secondo me, pensabile che si abolisca, per esempio, la quota litis. Il mercato va dove va e bisogna seguirlo con dignità, ma bisogna seguirlo. Più concorrenza, ci vorrebbe più concorrenza. Assolutamente sì. Rapidamente, domanda diritto, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Proprio in questi giorni l'Italia vista dall'estero è un disastro, non posso dire altro, è un disastro morale, un disastro di gestione della cosa pubblica, lo si veda da dove lo si veda e lo si guardi da dove lo si guardi, senza colori politici, davvero, assolutamente senza colori politici. Non facciamo una bella impressione all'estero. E quando penso, per esempio, all'Italia, per i miei coetanei, i miei amici, quelli che sono rimasti, sento e vedo le grandi difficoltà dovute ad una società che è sostanzialmente gerontoiatrica, e quindi come possono sviluppare la propria professionalità, il proprio talento, quando grandi medici trentenni non ce ne sono, per qualcosa sarà, o grandi avvocati trentenni. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Marco Bolognini, 35enne socio di un importante studio legale a Madrid. Nella capitale spagnola Marco è arrivato pochi mesi dopo la laurea, grazie a una borsa di studio comunitaria e dopo aver scientemente deciso con la propria compagna che la Spagna e non l'Italia era il paese in grado di offrirgli maggiori opportunità. In pochi anni, nonostante fosse straniero e giovane, Marco ha acquisito un numero crescente di responsabilità all'interno dello studio, fino a diventarne socio un anno fa. Una carriera decisamente inimmaginabile in Italia. E ci raggiunge ora in linea Maria Catibua, 25 anni, anche lei avvocato, al lavoro nello studio di Marco. Tra i due ci sono 10 anni di età di differenza, una generazione, potremmo dire. Maria, come sei arrivata a Madrid? Io sono arrivata a Madrid per l'università italiana, paradossalmente. Ho iniziato l'università a Firenze, ho fatto una doppia laurea di diritto, cioè ho studiato diritto, però mi sono laureata nei due paesi tra Firenze e Madrid. Così nel 2008, prima di laurearmi, avevo finito gli esami ma mancava la tesi, ho iniziato un po' per chiarirmi le idee a cercare lavoro e sono arrivata in questo studio nel 2008, grazie a una cara professoressa che mi aveva abbastanza a cuore, ci teneva che mi fermassi in Spagna, voleva che riuscissi a lavorare se volevo veramente lavorare in Spagna. E sono arrivata nello studio di Marco, dove mi ha fatto lui il primo colloquio, e ho iniziato come stagista e poi dopo la laurea sono arrivati il primo contratto temporale. Anche lì nessuna raccomandazione, selezione meritocratica. Totalmente, avevo una professoressa che diciamo ha puntato un po' su di me e mi ha aiutato in questo senso, una professoressa chiaramente spagnola dell'università autonoma dove studiavo io, e in questo senso sono arrivata, ho conosciuto Marco e sono approdata anche allo studio, e piano piano dopo la laurea è arrivato anche per me il contratto alla fine a tempo indeterminato. Ed eccomi qua. È interessante comunque, è un ritratto un po' in chiaroscuro quello che ne esce dall'università italiana, perché abbiamo un'esperienza molto negativa che è quella di Marco e abbiamo invece un'esperienza positiva che è quella di Maria. L'impressione è che a volte non ci sia un vero e proprio sistema, ma si vada un po' a fortuna. Questo è un po' il problema, secondo me, in Italia. Maria, si discute molto sul numero degli avvocati in Italia. Nel 2008, dati del Consiglio degli Ordini Forensi Europei, nel nostro paese c'erano 213.000 avvocati contro i 155.000 della Spagna e i 47.000 della Francia. Maria, i tuoi compagni di università rimasti in Italia, che cosa ti raccontano? In realtà quello che mi raccontano è un po' un disastro. È un sistema che chiaramente scoraggia moltissimo i ragazzi, non incentiva, non li motiva. Da quello che so, sono tutti dopo la laurea, fanno la pratica, sono praticanti, cercano di arrivare ad ottenere quel numero di udienze necessario per poi accedere a quello, allo scoglio che hanno tutti i giovani laureati in giurisprudenza, che è questo esame per essere avvocati che c'è in Italia e che appunto, se tutto va bene, tra pratica e esame, che bisogna passare lo scritto e l'orale come sappiamo, dura 4 anni senza vedere il becco di un quattrino, se tutto va benissimo. Mangiano aria per quattro anni. In Spagna non è così. Non è così assolutamente. Io sono, in realtà sto lavorando io dai 22 anni e in realtà è vero, ho iniziato come stagista, però ai 23 io avevo già il mio stipendio, versavo già i miei contributi per la previdenza sociale e continuo così. Chi si immagina in Italia che una ragazza con 22-23 anni può lavorare come avvocato. Ti cito Beppe Severnini, che un paio di mesi fa, riportando la lettera di una giovane avvocatessa 27enne pagata 500 euro al mese in Italia, scriveva Severnini: la laurea in legge è l'autostrada verso la disoccupazione intellettuale, con un tocco di schiavitù postmoderna. Con che coraggio un affermato avvocato da 200.000 euro l'anno, entrando in uno studio al mattino, guarda in faccia un ventenne cui offre un'elemosina da 200 euro al mese e chiudeva con un consiglio: non fate l'avvocato, se volete correre, scegliete l'aria aperta. E a Madrid vale la pena correre? Per la mia esperienza ti posso dire solo di sì. Nonostante tutto capisco lo sfogo perfettamente di questa 27enne e ti dirò di più, ho amici che mi hanno fatto lo stesso sfogo, magari non era una lettera rivolta a Beppe Severnini, però in Facebook anche si leggono queste cose di ragazzi che si chiedono perché mai mi sono laureato in giurisprudenza, perché non vedono possibilità di lavoro fino ai 30 anni, anche quasi inoltrati, per cui è appunto un panorama un po' tragico. Marco, tra te e Maria ci sono, dicevamo, 10 anni, c'è una generazione in mezzo. Secondo te le cose sono migliorate o peggiorate in questi 10 anni? Qui in Spagna sono leggermente peggiorate sotto un profilo economico, evidentemente. Però credo che la situazione in Spagna in realtà sia molto stabile per il mercato del lavoro e per le opportunità per i giovani nel nostro specifico settore. È un settore che tiene bene. Così come in Italia non sono cambiate né in meglio né in peggio le condizioni, invece le opportunità per chi volesse iniziare la carriera legale adesso. Quindi in realtà diciamo che sono 10 anni di stallo nel bene nella nostra professione qui in Spagna, nel male in Italia. Per chiudere, una domanda di rito, la domanda di rito a Marco: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Ripeto quello che diede a me quel dirigente bancario che mi spinse verso Madrid, tra Madrid e Milano. Direi ad un giovane: esci dall'Italia, vai a conoscere un po' il mondo, che sia andare in Spagna, che sia andare in Inghilterra o comunque da un'altra parte, che esca dall'Italia, che veda come funzionano le cose in altri paesi, in paesi non perfetti come la Spagna, perché non è un paese perfetto, per poi tornare, se potrà, un giorno e spendere in Italia tutto quello che ha appreso e imparato da un'altra parte. Cosa che piacerebbe fare anche a me, però in realtà non ne vedo le condizioni al momento. Oggi apriamo un nuovo spazio in Giovani Talenti. A partire da questa puntata, e così sarà ogni primo sabato del mese, Spazio Emigranti si trasforma in Spazio Regioni. Andremo a capire quali sono i programmi delle nostre regioni per attrarre o riattrarre i giovani talenti emigrati. Cominciamo col Veneto. Daniele Stival, assessore regionale ai flussi migratori. Se un ragazzo veneto è in giro per il mondo per motivi di studio, per motivi di lavoro, e sta meno di 5 anni all'estero, la legge non prevede nessuna possibilità di rimborso dal punto di vista economico o di sostegno economico, proprio perché ovviamente c'è un punto di partenza nella legge stessa che dice che non deve esserci una permanenza all'estero inferiore di 5 anni consecutivi. Se noi abbiamo questo presupposto, che è il minimo necessario per poter passare a eventuali sostegni, poi ovviamente su questo meccanismo passano e ci sono vari sostegni che vanno da una parte il viaggio di rientro, il trasporto di oggetti, l'affitto, le utenze domestiche, ma anche ovviamente per chi voglia costruirsi la casa o recuperare un immobile di proprietà, il sostegno dal punto di vista dell'edilizia. Dal punto di vista del lavoro ci sono meccanismi che vanno, diciamo, oltre alla parte che seguo io come veneti nel mondo, nel senso che rientrano nel meccanismo che ci sono già per tutti i veneti e quindi tutti gli stessi diritti, gli stessi doveri ovviamente che ci sono per gli altri cittadini veneti che vogliono fare impresa o che vogliono fare una propria attività in conto proprio. Quindi non ci sono particolari incentivi o agevolazioni per lavoro dipendente o lavoro autonomo per chi voglia tornare? Dedicato a quel tipo di utenza, no. Ci state stiamo pensando? Sperimentando con alcune province anche questo tipo di possibilità, però è ancora a livello sperimentale e ovviamente con risorse molto limitate, perché probabilmente insomma c'è tutta una serie di ragionamenti che stiamo cercando di fare per poter far sì che siano utili poi a un risultato concreto per i cittadini stessi. E dal punto di vista dello studio avete programmi chiamati in gergo Learn and Back, Master and Back, per andare a studiare all'estero e rientrare? Ma da questo punto di vista invece sì, noi facciamo degli interscambi culturali e di studio attraverso appunto il settore dei veneti nel mondo, negli interscambi che ci possono essere fra cittadini veneti residenti all'estero e cittadini veneti del Veneto che vogliono interscambiarsi. In questo caso ci sono delle linee di finanziamento che riguardano appunto le normali linee in cui andiamo a fare finanziamenti. Ovviamente devono essere progetti che vengono in qualche modo coordinati o dagli istituti superiori o dalle università o comunque dalle associazioni dei veneti nel mondo che poi fanno un po' da collante in tutto questo sistema. Qualche riferimento normativo anche delle leggi che ha citato, giusto per averlo sotto mano? La legge madre regionale è del 2003. Il primo sabato di dicembre vi parleremo invece dei programmi della regione Puglia. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanciamo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: c'è spazio in Italia per giovani che vogliono investire nell'innovazione? Queste le vostre risposte. Alessandro: in Italia c'è un grande potenziale di giovani che vogliono investire o investono nell'innovazione. Il problema è il finanziamento, pubblico o privato, che molto spesso latita. Un mio collega ha partecipato al progetto ESA dedicato al volo parabolico. Hanno preparato l'esperimento a loro spese. Altri team europei erano sponsorizzati da aziende del settore che credevano nei ragazzi. Però sono ottimista, la creatività degli italiani è riconosciuta in tutto il mondo. David: sarebbe già una gran bella cosa se i giovani potessero costituire un'azienda senza spendere migliaia di euro. In Inghilterra o negli Stati Uniti è possibile creare un'impresa con relativamente poco. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Le università italiane preparano a sufficienza per il mondo del lavoro? Quale giudizio assegnate loro, soprattutto se raffrontate con quelle straniere? E la preparazione universitaria aiuta nel trovare lavoro all'estero? Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanciamo settimanalmente la discussione. E potete pure interagire sul blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviateci i vostri contributi che pubblicheremo online. E da questa settimana lanciamo anche Matching, la prima piattaforma di interscambio tra giovani professionisti all'estero e i loro colleghi in Italia. Andate sul sito di Radio 24, cliccate sui blog, cercate quello di Giovani Talenti ed entrate in Matching. Avete un'idea di business Italia-estero, volete fondare un'associazione o semplicemente scambiare informazioni tra espatriati e non espatriati? Entrate in Matching e aprite una discussione. Il servizio è gratuito e a vostra disposizione. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto allora i vostri contributi a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.